Una delle più grandi ambizioni di una creatura è quella di essere condotto dal suo Dio. Questo vale per qualsiasi religione: induismo, buddismo, taoismo, shintoismo, ebraismo, cristianesimo. Non conosco credente che non si sia posto il problema di come lasciarsi guidare da Dio, e ciò significa che non esistono formule. Nel Salmo 32 che troviamo nella Bibbia ci sono dei principi che possono essere di aiuto di come si può essere guidati da Dio. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo che puoi essere trovato. Anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Rallegratevi nell'Eterno ed esultate, o giusti. Mandate grida di gioia a voi tutti, retti di cuore. Davide inizia la sua preghiera chiamando beato colui al quale sono stati rimessi i peccati. Questo è il presupposto per essere guidati da Dio. Poiché Dio è tre volte santo, poiché ogni uomo è peccatore, poiché tale situazione separa il creatore dalla creatura, se si vuole l'armonia tra il creatore e la creatura, è necessario togliere ogni velo di separazione, di riconoscere i propri peccati. La propria natura malvagia diventa un atteggiamento indispensabile. Davide riconobbe che non confessare il proprio peccato produceva in lui un tormento che non lo lasciava stare né giorno né notte. Ristabilito il suo rapporto con Dio, la creatura è in grado di ricevere la guida del suo creatore. Questo fatto spiega perché alcuni faticano a comprendere la guida di Dio nella loro vita. Essi non sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Dio desidera santità, loro vivono nel peccato. Dio desidera obbedienza, loro desiderano conoscere la volontà di Dio a titolo di curiosità. Una volta stabilito il rapporto con Dio, è necessario dare a Cristo il posto che gli spetta. Come in un matrimonio non è sufficiente il sì per avere in seguito una vita coniugale armoniosa, così non è sufficiente innescare il giusto rapporto con Cristo per garantirsi la guida di Dio in ogni istante della vita. Il sì nel giorno delle nozze serve per voler iniziare un cammino in due, come una resa a Dio. Serve per entrare in comunione con Cristo, ma occorre di giorno in giorno mantenere il rapporto iniziato, perché la luce, la pace e la gioia di Gesù Cristo possano essere presenti nella vita. È indispensabile accettare le circostanze della vita che stiamo vivendo. Il salmista si sta riferendo ad acque che straripano. Parla di rifugio, simboli questi che presumono momenti di grande difficoltà. Momenti dove tutto viene sconvolto come l'acqua quando straripa. Essa sommerge tutto, devasta ogni cosa, allaga zone tranquille, e solo un rifugio improvviso può aiutarci in quel momento. Cosa fare? Quando i nostri sentimenti, la nostra razionalità, la nostra pace, vengono inondate con violenza da situazioni inaspettate, un cuore fiducioso, un abbandono nelle mani di un Dio che ha cura di noi, possono permetterci di vedere la guida di Dio. Le vie di Dio non conducono sempre su terreni erbosi e soffici, come Israele dovette camminare nel deserto pieno di pericoli per 40 anni. Nonostante le difficoltà, l'Eterno fa una promessa: ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Dio non parla Invano non si comporta come un uomo, che dice e poi non fa. Perciò se ha promesso di dare la sua sapienza, al credente non resta che appropriarsene. La guida di Dio si riceve se si ha il forte impegno di volerla conoscere, se si ha un orecchio attento, se si è disposti ad accettare di essere corretti, ammaestrati, consigliati, ripresi. La guida di Dio si riceve se si ha la consapevolezza di avere il suo sguardo su di noi. Questo vale ovviamente per chi ha posto fede in Cristo, perché chi non si è riconciliato con Dio mediante il sacrificio di Cristo non può pretendere di conoscere la guida di Dio, dato che essa la si giudica spiritualmente e per fede. Vi è un'altra condizione per ricevere la guida di Dio, condizione questa espressa dal profeta Ezechiele al capitolo 20. Ora avvenne nel settimo anno, il 10 del quinto mese, che alcuni degli anziani di Israele vennero a consultare l'Eterno e sedettero davanti a me. Quindi la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: Figlio d'uomo, parla agli anziani di Israele e di Sime, loro, così dice: Il Signore l'Eterno, siete venuti per consultarmi? Con me, è vero che io vivo, non mi lascerò consultare da voi, dice il Signore l'Eterno. Stupisce la risposta dell'Eterno a coloro che lo cercavano. Io non mi lascio consultare, cioè non vi dirò nulla, non vi risponderò. E una risposta che non ci aspetteremmo con l'opinione che abbiamo di Dio, di un Dio buono, è sempre pronto a venirci incontro. Eppure qualche volta il Dio trino delle Scritture non si lascia intenerire e nemmeno interpellare. Perché un simile atteggiamento? Come può arrivare l'Eterno a nascondersi dalla sua creatura per la quale è morto in croce? Risponde sempre il profeta Ezechiele: Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Camminate secondo i miei statuti, osservate i miei decreti e metteteli in pratica. Santificate i miei sabati e siano un segno fra me e voi, affinché conosciate che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ma i figli si ribellarono contro di me, non camminarono secondo i miei statuti e non osservarono i miei decreti per metterli in pratica, osservando i quali l'uomo vivrà per essi. Profanarono i miei sabati e così io decisi di riversare su di loro il mio furore e di sfogare su di loro la mia ira nel deserto. Ezechiele 20.19-21. Il lamento dell'Eterno era che il popolo non ubbidiva i suoi comandamenti e perciò continua con il dire: Quando infatti offrite i vostri doni e fate passare per il fuoco i vostri figli, vi contaminate fino al giorno d'oggi con tutti i vostri idoli. Perciò non mi lascerò consultare da voi, o casa di Israele. Com è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi lascerò consultare da voi. 20.31. Sono parole che fanno riflettere soprattutto coloro che sono formalmente religiosi e che si prostrano davanti a delle statue venerandole e pregando, e che Dio definisce idoli. Quando la coscienza di questi religiosi sarà risvegliata dalla parola di Dio? Per essere guidati da Dio nel corso della nostra vita è necessario abbandonare il nostro romanticismo religioso per iniziare a mettere in pratica la volontà di Cristo così come scritta nella parola di Dio. Il popolo di Israele è e sarà sempre l'esempio di una razza religiosa che cerca il suo Dio. Eppure proprio verso di loro sono state sempre rivolte le parole più dure. Ecco quanto disse l'Eterno al profeta Ezechiele: Quanto a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo parlano di te presso le mura e sulle porte delle case. Si parlano l'un l'altro, dicendo ognuno al proprio fratello: Venite a sentire qual è la parola che viene dall'Eterno. Così vengono da te come fa la gente, si siedono davanti a te come il mio popolo e ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Con la loro bocca infatti mostrano tanto amore, ma il loro cuore va dietro al loro ingiusto guadagno. Ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene uno strumento. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ezechiele 33:30-32. L'Eterno condanna coloro che con la bocca fanno mostra di tanto amore, ma nella pratica rinnegano la loro professione di amore. Chi sono questi? Sono forse increduli? No, perché con la loro bocca fanno professione di amare Dio. Chi sono? Dei religiosi qualsiasi? E ne ho, perché dicono di amare Dio. Chi sono allora? Sono i credenti più zelanti, quelli più consacrati che ascoltano le parole di Dio, ma continuano a camminare come hanno sempre camminato. Pochi hanno compreso che conoscere Dio significa regolare il proprio cammino, non secondo la tradizione, ma secondo i comandamenti di Cristo. Chi desidera essere guidato da Dio deve camminare come Cristo camminò, in modo che, praticando la verità, egli giunga a conoscere la verità. La guida di Dio non si riceve una volta per sempre, ma essa rimane a una ricerca costante, mediante un insaziabile desiderio di piacere a Cristo. Molte persone cercano la guida di Dio, ma la cercano solo quando entrano in ballo scelte importanti, dove si rischia di grosso quando la salute è messa a repentaglio. Questo però non funziona, perché se non si è imparato a conoscere la guida di Dio nelle piccole cose, non si può pretendere di conoscerla nelle grandi e importanti. Perché la guida di Dio possa essere recepita, essa deve essere più importante del nostro benessere, della nostra stessa vita. Solo quando vi è una totale assenza della nostra volontà e del nostro egoismo, Dio è in grado di guidarci dove Lui vuole. Ecce. Una legge alla quale nessuno può sottrarsi. Novembre 2005. Ellero.